un programma di Francesco Rigoni e Stefano Giacchè. Giochi di tutto. Tutto col gioco e niente per gioco. E siamo in onda. Ciao, ciao Stefano. Allora, aspetta un secondo perché potrei essere riuscito nell'impresa non da poco di aver attivato esattamente il canale sbagliato. Dimmi qualcosa. Io ti dirò che intanto, come ci stavamo dicendo prima, è tanto che non ci risentiamo e non ci rivediamo, quindi bene, adesso scopriamo anche se nel frattempo in un mese abbiamo disimparato a usare gli strumenti di lavoro. Tu, perché io... Sì, no, infatti, devo dire che finora, sì, le mie intuizioni si sono rivelate corrette, quindi anche tu adesso sei correttamente in onda per questo secondo episodio di Giochi di Tutto... Tutto per gioco e niente per gioco. 7 ottobre 2025, 18.03. E la puntata di oggi... siamo persino puntuali e questa cosa... Non era scontata. Quindi riconosciamoci il merito di avercela fatta. Dunque, per chi ci ascolta per la prima volta e per chi atterra sulla nostra rete privata mattacchiona che sarebbe Radio Antidoto, questo programma, insomma, il titolo ve l'abbiamo già detto e vuole essere un'esplorazione originale, ma mi permetto di usare questa... Mi auto celebro dicendo che è un'idea originale, un'esplorazione del mondo del gioco e in particolare abbiamo iniziato parlando del modo in cui il gioco si interseca con la vita reale usando l'esempio del cosiddetto LARP, che è Live Action Role Playing, che appare anche nei primi episodi di What We Do in the Shadows, che è una serie TV sui vampiri, ma non in un modo particolarmente carino, e che ti racconterò in un fuori onda. Sì, anche perché non l'ho visto What We Do in the Shadows. Molto, quindi... molto carino, molto, molto carino. E abbiamo parlato... introducendo in qualche maniera come alla fine la distinzione tra gioco e realtà in una situazione come quella dell'ARP o della LARP a seconda del genere che gli si voglia attribuire è sfumato e obbedisce a delle regole. Stiamo cercando di scrivere assieme un racconto per passaggi, per temi e quindi io ti ho lanciato, come dire, una mia idea su quale poteva essere il secondo argomento da affrontare in questi nostri incontri che stiamo organizzando mensilmente, ce la stiamo cavando abbastanza bene. L'argomento su cui mi voglio confrontare con te, sfruttando la tua esperienza, la tua expertise, la tua conoscenza, spremendoti come una ciliegia, visto che vieni da un posto che è noto per la produzione di tal frutto, è lo spazio del gioco. E quindi, per cominciare l'episodio, smettere di parlare una buona volta, ti chiederò, partendo dalla prima domanda delle nostre scalette assolutamente inutili, è possibile dire che il tempo del gioco in realtà è uno spazio del gioco? Possiamo fare questo piccolo switch concettuale? Allora, intanto ammetto che mi hai messo in crisi perché effettivamente è difficile sempre considerare tempo e spazio come la stessa dimensione. Va bene, un po' di fisica l'abbiamo studiata tutti, però lo stesso. Il fatto è che il tempo è una dimensione importantissima del gioco e si accompagna a quello dello spazio. Cioè, anzi, paradossalmente è quasi più interessante esplorare le varie dimensioni del tempo perché in qualche modo siamo già abituati ad avere una percezione dello spazio ben più chiara rispetto a quella del tempo. Il tempo abbiamo bisogno di misurarlo in maniera esterna, lo spazio lo misuriamo con noi stessi. Quindi già questo è, secondo me, è un tema non secondario. E tra l'altro leggevo una riflessione estremamente interessante su quello che è l'approccio che noi abbiamo, soprattutto noi occidentali, con lo spazio in generale, per cui è come se fosse sempre qualcosa altro da noi. E facciamo fatica a sentirci veramente immersi in quello spazio. E visto che parlando chiaramente di LARP, il LARP tendenzialmente viene proprio considerato come un'attività immersiva, e quindi vuol dire che tu sei dentro totalmente a quello spazio e a quel tempo, è estremamente interessante considerare che forse diventa una modalità in cui non ti allontani e non guardi dall'esterno. E da questo punto di vista, quello che dicevo prima, anche il fatto dell'esplorare il tempo, significa pure che sia in condizioni appunto di LARP immersivi, quindi quelli che magari durano più giorni, sia in condizioni di chamber LARP, quindi di LARP da camera che durano da un'ora a un paio d'ore al massimo, non è detto che l'andamento del gioco segua lo stesso andamento del tempo lineare in cui ci muoviamo noi come persone. Certo. Quindi, salti temporali, d'accordo, ma soprattutto è la percezione stessa dello scorrere del tempo che è alterata. Per cui ci possono essere tranquillamente dei giochi che si esauriscono non perché si esaurisce il tempo, ma perché c'è un evento che è di importanza e priorità superiore rispetto al tempo. Esempio. Aiutami ad Esempio, avvicinarmi a questo discorso. visto che l'altra volta avevamo parlato di Sì. Prima Vennero è un gioco che ha una durata fissa, Certo. nel senso che essendoci una traccia audio che viene seguita, questa chiaramente viene eseguita in toto. Certo. Ma in realtà, se dovesse essere ritrovato un capro espiatorio, quindi effettivamente qualcuno dei giocatori viene, anzi dei personaggi, viene sacrificato, viene dato in pasto alla Gestapo per poter salvare tutti gli altri, il gioco si interrompe. Wow. Quindi finisce in realtà non tanto prima, perché comunque deve essersi svolto il grosso dell'azione narrativa. Però in quel momento si interrompe l'azione narrativa e si passa a quello che è un finale, diciamo così, meta, perché sono i giocatori che a quel punto descrivono la fine del personaggio. Quindi tendenzialmente c'è una lettera che serve fondamentalmente a raccontare quella che è stata la vicenda successiva, che quindi non viene vissuta ma viene narrata. È un po' la cosa di Boris, Odimo e Opama. Sì, certo. Però, ecco, per esempio, Prima Vennero di per sé è un esempio perfetto per la percezione tanto del tempo quanto dello spazio, perché il fatto di giocare in uno spazio che in realtà viene richiesto di essere ristretto, perché si sta tutti quanti accovacciati come se appunto si fosse all'interno di una soffitta, si gioca bendati o al buio. Sono tutte alterazioni dello spazio. E questa cosa ho notato sia da giocatore sia da facilitatore, consente anche un'alterazione del tempo. Mi voglio introdurre nella tua riflessione dicendo due cose. La prima è una cosa di servizio, come dire, da bravo host, ricordando che Come Vennero è questo gioco ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, dove i giocatori interpretano ciascuno, diciamo così, un appartenente a uno dei gruppi, come dire, all'epoca, delle minoranze esatto, minoranze che perseguitate. poi appunto su base random, come fu all'epoca, minoranze perseguitate dai nazisti dentro un appartamento in attesa appunto di questo raid della Gestapo che sarebbe andata a prendere queste persone. E il gioco si basa appunto su questo nastro che in qualche maniera dà delle indicazioni, se non mi sbaglio, mi raccontavi ogni tanto, ma soprattutto è una sorta Esatto. di soundscape, cioè di suono ambientale che ti cala nel contesto della situazione. Questa è un po' la comunicazione un po' funzionale a chi ci ascolta. Invece il vero senso del mio tackle, mi dai l'occasione per introdurlo proprio perché hai parlato di facilitazione. E volevo in qualche modo anche chiarire la mia riflessione, perché quello che dici sul tempo è molto vero, e in realtà lo conosciamo tutti bene, nel senso che ci siamo cresciuti, cioè c'è un tempo per studiare e un tempo per giocare, il tempo per il piacere, il tempo per il dovere, e tra le altre cose, se si vuole essere ancora più precisetti e fastidiosi, nel condominio di mia nonna, ma credo anche in questo, sebbene qua bene o male il silenzio è perenne, quindi non lo so distinguere, però l'ora del gioco è dalle 16, perché dalle 13, adesso non mi ricordo più da che ora, comunque da una certa ora relativa al pranzo fino alle 16 era quella che mia nonna chiamava l'ora del silenzio, e quindi nessuno doveva disturbare il vicinato, e quindi il gioco iniziava dalle 16, quindi il tempo fortemente scandito. Tuttavia, la mia riflessione barra provocazione barra stimolo, che peraltro posso riassumere in una riflessione che ho avuto sul balcone proprio oggi fumando, pensate che stronzo, Vedi? una riflessione neanche intelligente, cioè ero lì che fumavo, ho pensato, ma in fondo alla fine il tempo è un'illusione, cioè, nel senso, avevo finalmente capito quando alcune persone esprimono questo concetto e l'avevo espresso esattamente con le stesse parole, però è vero che in qualche maniera il gioco è un contesto in cui si entra. E secondo me la tua esperienza di applicazione delle regole del gioco, diciamo così, dell'interazione all'interno di un gioco, forse è la definizione migliore, in un contesto, per esempio, lavorativo, te lo spiega bene. Cioè, tu entri in una porta invisibile, cioè del tutto astratta, e dici, da qua siamo dentro a uno spazio che è un gioco. E che sì, durerà del tempo, però quello che delimita veramente il gioco è il momento in cui tu esci da questo spazio. Non so se mi sono spiegato e se questa riflessione nella tua esperienza ha senso. Ha molto senso, tant'è che in tanti giochi immersivi, una delle cose che si cerca di agevolare è proprio anche il vivere quei momenti necessari alla vita del giocatore, quindi mangiare, dormire e andare in bagno, e farli vivere comunque anche quelli in maniera immersiva. Il Ok. che significa? L'anno scorso ho avuto finalmente la possibilità di partecipare a un LARP che si gioca nel deserto del Sahara. Fisicamente Ma non fisicamente, cioè per finta. nel deserto del Sahara. Esattamente, What? Tu sei andato nel deserto del Sahara a fare gioco di ruolo dal vivo. sì. Ti manca niente. The Sahara Expedition, sempre della Chaos Wow. League. Ok. Quindi fondamentalmente, poi non è che eravamo così tanto dentro, eravamo nell'erg, quindi. Nella delimitazione che già è sufficientemente terrificante. Cioè, l'ho Sì, esatto, cioè vista sono già. Esatto. è già deserto, va benone. Però anche quello ti porta a vivere chiaramente in un contesto e in una modalità per cui il tempo che scorre è comunque delimitato dall'anno e giorno, e questo è fuori Ok. discussione. Però tutte le tue attività personali, private, necessariamente devono essere vissute anche in quel contesto. Quindi tu hai un'esplorazione dello spazio e del tempo che sono legate anche al fatto che, ok, ma io non ho mai, perdonami il francesismo, cagato nel deserto. Come si fa? A parte il fatto che Già. scopri la meraviglia delle sedie bucate, Ah beh, sì, volendo, sì. però al di là di quello è proprio il fatto che dici, bene, devo trovare una duna abbastanza distante da essere riservato, ma contemporaneamente non troppo da perdere il riferimento col Esatto, campo, sì. e devo prendere e andare. Contemporaneamente devo accettare il fatto che anche il mangiare e il dormire li fai in maniera immersiva, li fai da personaggio, Ok, quindi non tu lo non stai fai. Esatto. uscendo dalla porta. Nel senso, sei nel deserto del Sahara, ma stai anche giocando, cioè c'è un doppio dislocamento. Perché tu potresti essere Stefano Esattamente. Giacchè nel deserto del Sahara, fa caldo e ci sono i Esattamente. tartini. Mentre invece sei il tuo personaggio. E chi E sei? fin quando... Cioè, nel Eh senso. beh, vabbè. Vabbè, sarà una cosa buffa, immagino, però va bene. Sì, chiaro. Vabbè, in quel caso l'ambientazione era una spedizione, perché era ambientazione del mondo di Lovecraft. Quindi era la spedizione. No, infatti, cioè, c'era anche un'ambientazione che già di sua era molto evocativa. Quindi era questa spedizione nel deserto del Sahara che in realtà cercava le tracce di una precedente spedizione Ok. alla ricerca della città di Zerzura. Meraviglioso. Bello. E non so se si riuscirà a rigiocare nei prossimi anni, ma lo stesso non, cercherò di non fare troppi spoiler. Comunque, all'interno del gioco c'è quindi tutta una serie di personaggi. Quindi ci sono i legionari, ci sono quelli addetti alla psicomanzia, per Ok. cui devi interrogare di fatto, gli spiriti con cui entri in contatto per trovare eventuali informazioni che gli archeologi invece non riescono a ritrovare. Quindi ci sono una serie di diverse attività a disposizione. Ma la cosa appunto interessante è che, come hai detto tu giustamente, tu hai varcato la soglia nel momento in cui tu sei uscito da Duz, dall'ultima città, ed entri dentro al deserto, fin quando non c'è il segno chiaro di fine gioco, non ti poni neanche il problema dell'uscire. Ci sono, chiaramente, è inevitabile, dei momenti in cui comunque ti ricolleghi a quella che sarebbe la tua vita normale. Sì, Però, certo. tanto per dire, il cellulare non prende. Di con sé, a meno che tu non abbia un satellitare, quindi non esiste questo discorso. Il tuo legame con la realtà è il fatto che ci sono chiaramente gli aiutanti di campo che si muovono con le jeep. Ok. E ovviamente, se l'ambientazione è del 1930, dai per scontato che le jeep no, ci si muove con i cammelli, cosa che peraltro a un certo punto si fa, e i cammelli ci sono. Tu sai che quello che vedi di tecnologico, in realtà lo stai ignorando come Ok, vista. sì, che tra l'altro, come dire, è il segno di un giocatore capace rispetto a un giocatore inesperto, perché è un modo di entrare nella dimensione del gioco, di nuovo, nello spazio del gioco molto estrema, cioè nel senso, quella roba lì la vedo, ma il mio cervello la esclude da quello che mi sta capitando, perché altrimenti che cazzo ci sto a fare io nel deserto a fare la spedizione Lovecraftiana. Però volevo chiederti, ma il gioco, questo gioco qua, sarei tentato di chiederti quando inizia, ma in realtà dove inizia? Nel senso, è una cosa che inizia nel deserto o la vostra spedizione, cioè l'inizio del gioco di ruolo è precedente e prevede anche una fase di gioco dell'arrivo nel deserto? No, allora, c'è chiaramente l'antefatto, Ok. che quindi è comune a tutti e di fatto serve da setting. Quindi esattamente quel altro gioco, il fatto che, come ti ho raccontato, è una spedizione nel 1925 che si muove alla ricerca di un'altra spedizione, questa roba è l'antefatto, è un'informazione nota a tutti. Quello che Per esempio, in questo gioco non è detto che si faccia dappertutto. Siccome per comodità, visto che il trasferimento da Tunisi ad Oğuz richiede 8 ore di pullman, ci si muove tutti assieme e per comodità si fa una notte in albergo ad Oğuz Ok. e lì si gioca una scena. Ah, ok, quindi c'è uno stacco, diciamo una specie di prologo. Esatto, c'è una sorta di prologo, esatto, Ok, che poi che sarà sostanzialmente come si chiama, il briefing prima della missione, della spedizione. praticamente sì, perché è di fatto la presentazione della missione. È quello che succede prima di partire. Dopodiché c'è un salto temporale e quindi nel momento in cui si arriva alla base, ognuno poggia le proprie cose all'interno della propria tenda, da quel momento effettivamente il gioco inizia. Qual è il segnale? Esiste un segnale fisico di inizio e fine gioco? Tipo un fischietto? Oppure si parte, il primo che se la sente va, inizia. No, in realtà, certo, in fase di briefing viene detto, bene, dal momento in cui c'è, per esempio, la prima adunata dei legionari, così, è segnale di gioco. Ok. Il primo LARP che ho fatto nella mia vita era un LARP ambientato, abbiamo giocato sull'Appennino Forlivese. L'ambientazione era questa distopia per cui fondamentalmente a un certo punto tutte le riserve idriche in Europa risultavano inquinate e velenose, crollo della civiltà in Europa, perché in 2 mesi fondamentalmente va tutto a scatafascio, e tramite una radio clandestina viene trasmessa l'informazione che alla diga di Ridracoli sull'Appennino Forlivese c'è una riserva d'acqua potabile. Ok. E quindi messaggio per tutti i sopravvissuti, recatevi lì. Che bello Quindi che noi c'è la eravamo. radio. Mi Sì, perché la emoziono. radio quella continua a funzionare. È una cosa Bravissimo, questa è una meravigliosa. mia fissa totale da sempre. Cioè, la radio sarà il mezzo di comunicazione che ci aiuterà a restare in contatto quando tutto va in vacca. Prego, scusami. Cosa peraltro molto molto No, probabile. è così. Ah no, che vada in vacca. Sì, Sì, godiamoci anche. questi episodi. Esatto. Comunque, fondamentalmente l'idea era che noi ci si sarebbe dovuti incominciare a incamminare lungo un sentiero a distanza di svariati metri l'uno dall'altro, quindi distaccati, ma nel momento in cui tu iniziavi a camminare, avevamo tutti quanti delle cuffie con, Ok. non mi ricordo se c'era un iPod o qualcosa, comunque. Ascoltavamo la traccia che ci Ok. guidava all'ingresso, ma nel momento stesso in cui la traccia partiva, noi eravamo in game. Ok, quindi quello è come le sedie, come si chiama, le sedie musicali, cioè parte la traccia, si gioca. Tra l'altro ne approfitto perché c'è Fred Bonelli che ci ascolta che diceva che esclamava, cavolo. Non usando proprio questa parola, però sostituiamolo con cavolo, ma io mi devo mettere a scrivere LARP. E questo mi ha fatto venire in mente un'esperienza che abbiamo fatto insieme, che lui mi ha permesso di fare qui in Piemonte. A ricordarmi il nome del paese sarebbe bellissimo, ma la mia memoria ormai. Ah, Ormea, Ormea, giusto, perché c'è una c'era una baia. Ormea non la so, ma so che c'è il villaggio delle stelle in Piemonte che non so se sta lì. È un posto dove ci giocano un sacco di LARP. Adesso ti dico se è lì. Comunque, non era un'esperienza di LARP, era un'esperienza di gioco di Non lo so. ruolo su tavolo che Ok. si chiama Le Grand Jeux. L'ha inventato lui ed è sostanzialmente un gioco dove tu hai a disposizione delle pedine, degli segnalini, degli strumenti, diciamo, fisici, però il tuo scopo di volta in volta è, come dire, discutere con i tuoi compagni di gioco per turni rispetto a come gestire una data tematica relativa al territorio, al tuo territorio. Quindi Federico portò a Ormea, come dire, il gioco di come trasformare Ormea, di come farla, come dire, come farla ricrescere, visto che è uno dei tanti paesi alpini che è in via di spopolamento. Sì. E non è un gioco di ruolo dal vivo, nessuno ha interpretato un personaggio, però attraverso le azioni, cioè quando si è entrati nella stanza, ci si è seduti al tavolo e Federico ha spiegato le regole ed è iniziato il primo turno, le persone, dopo pochissimo tempo, ma al primo giro già tutti erano così dentro il gioco che già stavano ruolando, cioè nella loro testa loro non erano più Gaspare, Umberto, Esatto. Federica, ma erano il tizio che possedeva, che voleva possedere la fattoria o che voleva fare la scala mobile per far salire e scendere la gente dal paese, che è comunque un paese in pendenza, eccetera, eccetera. Questo per dire che non serve andare nel deserto per, chiaramente no, ma su questo non ho dubbio che tu sia d'accordo con me, per entrare nella dimensione del gioco, di nuovo entrare, perché alla fine è come dire, è proprio una dinamica, come dire, comune. Infatti Federico commentava dicendo: mi devo mettere a scrivere l'ARP, però lui ha scritto anche pezzi teatrali, è anche uno che fa performance di improvvisazione, diciamo più sciamanica, se posso permettermi. Spero che Federico non venga a menarmi da dove si trova adesso. Tra l'altro forse è Genova, quindi non ci mette neanche tanto. Però il discorso è la cosa affascinante è l'intersecazione di tutte queste attività, per cui permettimi di fare un po' l'antropologo di sto cazzo. L'idea è quella di dire che nelle attività umane ci sono dei setting che in realtà sono setting fisici, nel senso tu inizi a fare una cosa e tu indossi il ruolo attribuito da quell'attività ed entri in Esatto. uno spazio che, come dire, io l'ho studiato per quello che riguardava il sacro, era una cosa che diceva niente meno che il signor Freud, e con il tabù e tutto il resto, ed effettivamente tu, come dire, fai accesso a questa dimensione. Tant'è che la cosa affascinante di quello che tu mi stai raccontando, e devo togliere assolutamente il mio ritorno di voce perché mi sta facendo impazzire, scusami. Ah, stavo impazzendo. Comunque, la cosa interessante di quello che mi stai raccontando è il fatto che la Chaos League che ha organizzato questo evento l'abbia voluto fare nel deserto. Quindi, tornando a quello che tu mi dicevi prima, neanche Lovecraft aveva pensato a come si dovevano comportare i suoi magnifici personaggi quando dovevano andare al gabinetto. Come Esatto. ve la siete risolta? Ma perché di fatto, vabbè, ci sono chiaramente alcune indicazioni che vengono date da un punto di vista proprio di gestione degli spazi. Quindi dici, ok, il bagno è potenzialmente ovunque, cercate di limitare perché chiaramente non dobbiamo lasciare comunque nulla in giro. Ok. Quindi probabilmente vi servirà anche scavare una buca nella peggiore delle ipotesi. Quindi queste sono informazioni chiaramente di gestione Ok. strettamente tecnica. È Logistica. chiaro che se sei in una situazione standard, il bagno c'è, il problema non te lo poni. Certo. Mangiare, mangi anche lì, mangi in game e quindi probabilmente mangi insieme alla tua cerchia, Certo. insieme alle persone con cui tu hai relazioni, oppure no, oppure vai a cercare una nuova relazione. Ma questo fa perfettamente parte, di nuovo, come dicevi tu prima, del modo in cui ti relazioni agli altri esseri umani. Ed è una cosa dettata dalle indicazioni che tu hai. Cioè, la cosa secondo me fondamentale è proprio che, come hai detto tu prima, l'esperienza che ha proposto Fred, bastavano poche indicazioni per trasformarsi in qualcos'altro. È Certo, semplicemente dire tu hai un obiettivo, oppure tu hai un background, oppure tutte e due. ok. Quelle, e magari questa può diventare una cosa di cui parlare, cioè di come noi chiaramente ci facciamo condizionare da quelle che diventano le nostre regole del gioco. Certo. Perché inevitabilmente io sto accettando, perché l'ho scelto, quelle che sono le regole e quindi mi comporto di conseguenza. Se io sono un chiacchierone, ma il mio personaggio è descritto come taciturno, è chiaro che probabilmente mi giocherò anche il fatto di dire, beh, vabbè, mi metto per conto mio e mangio per conto mio. Certo. Ma invece, cioè, nel Poi. senso, aiutami a calare questa cosa nel contesto, scusami se insisto su questa parte, Sì, ma ma perché hai certo. tirato fuori un esempio veramente bello. Tu sei Lord Stapleton, no? E Sì. sei, boh, un archeologo, assistente del professor Mapleton, e devi andare proprio in bagno a fare quella grossa. Come fai? Ah, mi scusi, professore, mi debbo assentare. Urgenze Perché impellenti te lo no? richiedono. Perché no? Cioè, anche Ok. lì, giocare, come lo chiederesti negli anni 20? Ti devi assentare. Può anche essere che mi giro e me ne vado, non do spiegazione a nessuno. Magari mi faccio pure urlare dietro, ma dove va? Ma stavamo Ok. parlando. Che ne so? Cioè, dopo il mettersi di nuovo in relazione con gli spazi e con le modalità, sono a loro volta fortemente condizionate dall'ambiente e dal modo in cui io mi sono portato a comportarmi. Quindi diciamo che da questo punto di vista poteva essere vero tanto lì quanto in qualunque altro contesto. Mi è fatto venire in mente un LARP a cui non avevo pensato. Ed è in questo caso invece un chamber LARP, e non mi ricordo il nome, ma si svolge così. È anche questa una distopia, quindi c'è cioè, fondamentalmente distopia ormai vuol dire tutto e vuol dire niente perché è un documentario. Comunque, una società totalitaria. Ci sono quattro coppie di spie, comunque di ricercati dal regime, che per poter essere sicuri di poter comunicare, vanno tutti quanti al cinema a vedere Casablanca. Che Quindi il gioco si svolge in una bello. sala, tipo sala cinema, Ok. mentre si guarda Casablanca e ci si manda SMS. In realtà poi SMS. in realtà WhatsApp va bene, però sì, ci si scambia messaggi, Perché quindi è sei una giocato. spia contemporanea. Sì, Ah, assolutamente. ok. No, mi ero perso il dettaglio. No, il fatto però è quello, cioè si comunica e quindi si gioca in realtà da fermi guardando un film, Ok. però vai in relazione con le persone con cui tu dovresti organizzare la tua fuga dal paese. Ma scusami, e questi SMS sono privati o cioè come fanno gli altri a partecipare del tuo gioco? Sì, ci si scambia i numeri, ci Ok. sono di fatto, se mi ricordo bene, perché ormai l'ho fatto qualche anno fa, due gruppi da quattro, Ok. quindi due gruppi WhatsApp da quattro, dopodiché ci si deve Ah, cambiare ok. temporaneamente, ci si deve cambiare temporaneamente il nome in Certo. modo C'è da anche l'immagine del profilo, comparire. immagino. Sì, Tieni esatto. un po' di credibilità. Sì, esatto. E dopodiché inizi semplicemente Scrivere. a scriverti e scrivi dentro il gruppo oppure scrivi privatamente agli altri, perché ci sono poi anche delle relazioni private tra Ok. i giocatori. Questa cosa è stata in realtà estremamente interessante come modalità, per via del fatto che tu sei fermo, tu sei Ok. costretto a restare fermo al cinema. Certo. Tra l'altro è un bispazio, perché è come il deserto, cioè non stai soltanto entrando in uno spazio del gioco, stai anche entrando in un secondo spazio che è quello del cinema, che ha degli altri codici ancora. Tra l'altro, mo, diciamolo, scrivere SMS al cinema è un po' da cafoni, cioè disturbi comunque gli altri. Assolutamente. Però immagino che la proiezione fosse solo per i giocatori, e quindi in quel caso. Sì, Ma c'erano anche, ovviamente. cioè, voi siete spie che vi scrivete, ma c'era anche chi vi remava contro, cioè chi controllava, chi cercava di sgamarvi? No, però c'erano Ok. fondamentalmente anche lì, ovviamente, delle motivazioni e dei background tali per cui c'era qualcuno che poteva essere più propenso o meno propenso A a cercare di tradirne. scappare. Ah, La ok. scelta di Casablanca era estremamente interessante per vedere il fatto del messaggio che viene trasmesso lungo tutto il film. Quindi questa preparazione alla fuga, Certo. questo desiderio di lottare contro il regime. È stato un bel esperimento, anche se da questo punto di vista ha il difetto enorme che perde tantissimo di interazione. Sì, anche di Perché? corporeità, cioè tutto mentale come Esatto. gioco. Tra l'altro, co come, come finisce? Cioè, nel senso, come finisce il gioco? Finisce col film? Finisce il film, Finisce finisce il col film. gioco? Esattamente. E si vince? Cioè, nel senso, come fai a sapere che il gioco è andato bene? Beh, fondamentalmente. Allora, aspetta. Mi sembra di ricordare che la questione fosse il decidere se il tuo partner decideva di partire con te oppure no. Ok, Cioè io a un perché si certo giocava punto ho a dato. coppie. Sì, esatto, a Ok. coppie e in gruppo. E io a un certo punto ho proprio sfruttato le parole del film per dire, ah, ma allora vedi che sei tu quella che mi tradisce, ah, ma Ah, allora vedi, ok. cioè, gaslighting all'altissima potenza. Ma ascolta, tornando invece al tuo racconto dell'ARP sahariano, non è che voglio insistere su quello, però ho la scaletta a fianco ed effettivamente introduce un argomento e volevo capire rispetto anche a questa esperienza che tra l'altro quanti giorni è durata? Allora, in tutto 3 giorni e mezzo, più Ok. chiaramente trasferimenti, perché Vabbè, quindi certo. alla fine erano 5 giorni perché Ok. volato su Tunisi. Giorno di trasferimento da Tunisi a Douz, un giorno a Douz per fare tutta quanto il briefing del Ok. gioco, quindi spiegare tutto e la sera giocare la scena iniziale. Il giorno dopo trasferimento nel deserto, che comunque qualche ora l'ha richiesta, e poi abbiamo iniziato a giocare. Si è dormita l'ultima notte nel deserto, quindi il gioco è finito verso mezzanotte. Festa nel deserto, che è stata un'esperienza anche quella bellissima, anche Certo. perché chiaramente io non ne avevo idea, perché era la prima volta, ma la luce che c'è nel deserto tra la luna e le stelle è impressionante. Sì. E poi la mattina dopo io e altre 4 persone dovevamo correre praticamente in aeroporto a Tunisi per cercare di prendere l'aereo e quindi noi siamo scappati via subito la mattina alle 9, tipo, avevamo l'aereo alle 5. Ok, volevo chiederti rispetto a questo, a questa esperienza, se qual era l'obiettivo, visto che ti ho chiesto anche la questione del tempo questa volta, perché magari trascorrendo anche gli spostamenti, quei momenti un po' intermedi dove non è ancora gioco, magari è anche l'occasione un po' di scoprire, di parlare più tecnicamente del gioco più che giocare, se questo gioco voleva essere anche un esperimento sul corpo, cioè perché, nel senso, al di là del fatto che è un'ambientazione molto figa, senza dubbio, uno dovrebbe andare a fare un LARP nel deserto. Beh, non era volutamente, non aveva quell'obiettivo. Ok. Tant'è che c'era nella mia run c'era una coppia di signori pensionati, ultra sessantenni. Wow. Nonostante fosse stato ripetuto in tutte le salse, bevete, è stata all'ombra, bevete, è stata all'ombra, Schioppati. era fino a ottobre. Lei sì, lei Ok. ha proprio Malore. avuto un momento di grossa difficoltà. Ok. Però Quindi non era atteso, cioè non era desiderato quello. non era Non desiderato, in una era. maniera più. No, Ok. infatti, cioè, ecco, mettiamola così: il LARP non è tendenzialmente la prova di resistenza per nessuno. E visto che uno dei temi fondamentali è sempre la safety, Certo. psicologica sì, Però anche in personale sì, questo ma caso anche fisica. fisica, Certo. esatto. Quindi assolutamente no, non è quello l'obiettivo. E Quindi. che tu conosca, nel senso che tu abbia mai affrontato, anche al di fuori del mondo LARP, nel senso poi LARP è particolare, sarebbe ancora più bello se tu avessi esempi legati anche al mondo, diciamo così, appunto del lavoro, nel senso l'applicazione delle dinamiche del gioco sul lavoro, però appunto un'attività di questo tipo che invece in qualche maniera gioca sullo spazio, cioè riflettono sul, cioè se hanno anche una riflessione metaludica, nel senso adesso cerco di pensare a un esempio, cioè un gioco che dica: siccome noi sappiamo che lo spazio del gioco è uno spazio, cioè che il gioco è fatto anche di uno spazio, allora noi mettiamo la regola XYZ per manipolare lo spazio in modo che il gioco sia un pochettino più difficile. Magari, per esempio, un gioco dove effettivamente si sfida molto i confini con la realtà, quello del deserto mi sembra già abbastanza avanzato da questo punto di vista, pur essendo propriamente gioco. Ma esiste una riflessione su questo elemento? Allora, il problema è questo. Molte riflessioni che ho visto fare in ambito LARP immersivo comunque erano più legati allo svolgimento del gioco, alla narrazione e in parte all'ambiente. Cioè, non doveva essere più di tanto quello. Un esempio per me è stato Eclipse, fatto ad aprile della Chaos League, ambientazione nel 2050, anche qui il mondo va leggermente tragicamente a puttane, per cui per sfuggire alla devastazione dovuta al riscaldamento globale e al cambiamento climatico, praticamente ci si mette finalmente d'accordo, si riescono a organizzare delle spedizioni spaziali, quindi progresso tecnologico accelerato. Vengono mandate sette spedizioni alla ricerca di un pianeta abitato. La spedizione Eclipse 7, quindi quella che si gioca, è la settima, raggiunge il pianeta Gliese 628 abitato. Allora, lo spazio di gioco è. Se vuoi, poi ti giro direttamente le immagini del posto, ma se tu cerchi Alvernia Planet su Google Maps, vedi le foto ed è una roba pazzesca. Cioè, sull'autostrada che va da Cracovia ad Auschwitz, a un certo punto ti volti a destra e dici: ma che cazzo c'è? C'è questa enorme base spaziale piantata in mezzo alla pianura polacca. Praticamente negli anni 90 si sono costruiti questo posto, probabilmente pensando anche di farne un set cinematografico. Fuori da lì c'è tutto un bosco. Noi andavamo, perché io facevo parte appunto degli esploratori, noi andavamo in esplorazione del mondo esterno e cioè due volte al giorno, fondamentalmente. Due volte al Quindi giorno. era come un po' un passeggiare per Chernobyl, qualcosa del genere. Una roba del genere, anche perché c'era un espediente estremamente intelligente che è stato quello di dire: noi non sappiamo soltanto che c'è una forma di vita da qualche parte e la attiviamo con i rumori. Quindi noi non dobbiamo parlare. Come il film Sì, esatto, dell'orrore. sì, c'era sia Arrival che Contact come diciamo, derivazione. E quindi andavamo in giro con queste cuffie da silent disco. E quindi tu vedevi questi gruppi di 10 persone in tuta spaziale con le cuffie da silent disco che si muovevano completamente In in Polonia. silenzio. Esatto. La cosa più buffa dell'esperienza di aprile che abbiamo vissuto noi era che contemporaneamente sull'altro lato della base c'era la Harry Potter Experience. Quindi noi avevamo, è stata una cosa ridicola, noi ogni tanto ci vedevamo attraversare la strada da questi bambini vestiti con la sciarpa di Grifondoro Però che appunto, avevano nel sbagliato senso, strada. quella roba lì, se non sei bravo, ti spacca il gioco perché ti ha rovinato lo spazio. Di fatto sì, noi avevamo uno spazio in condivisione. La cosa ancora più incredibile era non tanto il fatto che comunque ci passassero anche dei sentieri, delle piste ciclabili, per cui soprattutto la domenica c'era gente che andava lì a correre, a girare in bici. Ma a un certo punto, e vorrei evitare di fare spoiler, metti caso che qualcuno mai un domani volesse giocarlo, si entra in uno spazio che nella finzione del gioco di fatto tu ignori, ma tu ti rendi conto perfettamente che hai uno spaesamento perché dici questa roba non c'entra di per sé. Ok? Non voglio raccontarlo più di tanto Ok, perché dopo quindi c'è diventa un spoiler. oggetto che è assolutamente fuori contesto, Fuori tipo contesto, fuori una contesto. macchina per cucire, via, cioè una roba No, dadaista. beh, diciamo le galline quelle sì. Quelle me ne No, sono no, trovate. ma per dire nel senso, cioè era per capire quanto fosse straniante la presenza di questo elemento nello spazio, che però messo lì Esatto. volutamente non sono i maghi di Harry Potter. Tra No, l'altro, no. aiutami a capire, nel senso, voglio capire se ho capito bene, scusa il gioco di parole. Cioè, questo gioco qui è un gioco al contrario, nel senso che tu entri nello spazio della base e poi il gioco è esplorare la realtà fuori, quindi stai ribaltando il tuo rapporto, giusto? Sì, esatto, in realtà c'è moltissimo lavoro in base, però ci sono quei due momenti. Però il mondo fuori è il tuo, cioè nel senso stai facendo finta che è il tuo mondo, poi tu non sei polacco, quindi quel posto comunque per te sembrerà strano, d'accordo, però è un bosco, immagino, o comunque è la steppa, quello che c'è in Polonia, Sì, esatto. però tu lo tratti come se fosse qualcosa di assolutamente nuovo, Alieno, esatto. alieno, sì, la parola giusta è alieno. Infatti, sì, ma in questo senso è proprio la parola giusta Eh perché sì. tu stai guardando qualche cosa che non ti appartiene. E un po' devi anche far finta, cioè qui arriviamo proprio al gioco come sono in grado di farlo i bambini, cioè Sì. stai mettendo sopra una cosa che è ordinarissima, tipo le galline, un filtro per cui quello spazio non è più lo spazio che sarebbe di solito. Esatto, sì, ma è veramente così, cioè Quanto anche dura, scusami? questo 3 giorni, Ok. ormai sì, la Chaos si è tutto sommato stabilizzata su dei LARP da 3 giorni, poi ovviamente c'è la grossa questione che facendoli appunto all'estero, in larga parte, o almeno questi ad alto budget, perché chiaramente per abbassare i costi delle Certo. location, ovviamente poi hai il costo aggiuntivo del Poi non è che hai trasferimento. le basi spaziali dappertutto, quindi immagino che No, infatti. tu vada anche dove tu trovi degli edifici che quella è proprio una, cioè, è proprio una struttura astronomica o un posto molto strano che ricorda una base spaziale? Cioè, quanto fai finta che sia una base spaziale? No, neanche un po'. Ah, Cioè, ti ok. rendi conto che è una base spaziale. Tant'è che la cosa meravigliosa è che lì dentro i bagni sono a tema. Quindi sembra sempre di dover dire, però tutti gli spazi, tutte le strutture sono a tema. Quindi Ok. quello è proprio perfetto come E ambientazione. non è costruito ad hoc, cioè è una location che è stata No. trovata per fare questo tipo di cosa. Ok. Esatto. E dove ci. Tra l'altro è interessante, cioè nello stesso posto tu puoi fare un LARP ambientato nello spazio e un LARP ambientato a Hogwarts. Quanto è strano Beh, questo no, no, no, posto. non era. No, la Harry Potter Experience è proprio la mostra quella Ah, che ha girato, che è stata anche a ok. Milano. Sì, ho capito di cosa parliamo, Però hanno scusa. Per usato quello spazio lì perché è grande allestirla. abbastanza. Sì. Certo. Ma allora, a che punto siamo della nostra scaletta? Abbiamo 10 minuti di puntata, quindi potremmo anche fare una cosa così estemporanea. Che non mi aspettavo di fare, però secondo me ci torna utile, e cioè fare la cosa più antica del mondo e mandare una canzoncina. Che ne pensi? Mandiamo una canzoncina, Dai, ti va? sì, Va mi bene. piace, Tra vai. l'altro tratta da What We Do in the Shadows, In the ridendo e shadows. scherzando. Giochi di tutto. No, tra le Mi hai altre già cose, sostituito. in realtà adesso siamo in onda perché ovviamente devo schiacciare 70 pulsanti, les incompetentes. Dimmi qualcosa per favore, giusto per essere sicuro. Mi hai già sostituito con qualcun Ok. altro. No, no, Molto bene. non ti ho sostituito. No, in realtà mi sono preso il tempo tecnico di questa canzone proprio per fare un po' il punto della situazione a 5 minuti dalla fine. E in realtà, al di là delle domande ovviamente pretestuose e complicatissime che come al solito io scrivo, volevo chiederti a che punto della conversazione siamo arrivati, o meglio, cosa ci siamo dimenticati di dire e cosa ci portiamo dietro da una riflessione di questo tipo? Se te la senti di dirmelo. Puoi anche mandarmi a Allora, stendere e basta. va bene, lo farò, ma lo stesso ho voglia di risponderti. Allora, non so che cosa ci portiamo dietro, se non che lo spazio inteso come ambientazione di gioco Ok. chiaramente ha l'effetto di essere estremamente evocativa e di portarti in uno spazio alieno che quindi tu vivi con gli occhi della scoperta. Ok. Anche di qui, in realtà questa è una cosa che per esempio non abbiamo detto, ma ci sono degli spazi che piacciono talmente tanto che poi vengono adoperati per giochi diversi. Prima Certo. appunto nominavo il Villaggio delle Stelle che viene adoperato ed è appunto in Piemonte a Lucernetta che viene adoperato abbastanza spesso per esempio da Terre Spezzate. Per ambientarci dei giochi. Il convento dell'incontro che è sopra Firenze, tra l'altro adesso c'è pure una sottoscrizione perché hanno avuto dei grossi danni e quindi ha bisogno di riparazioni, però anche quello viene sfruttato da associazioni diverse per organizzarci dei LARP. C'è addirittura un paese, Pescaglia, Ok, e tra l'altro è famoso che Pescaglia, perché? sì, non sapevo quanto fosse famoso, però di fatto è un piccolo comune in Toscana che si è di fatto messo a disposizione come luogo dove giocare dei LARP. Ok, forse ne ho sentito parlare per questo, chi lo sa. Può Però darsi. è un posto conosciuto, non so perché. Quindi ecco, cioè, dopo. La capacità dell'ambientazione anche di farti vedere le stesse cose in modo diverso ti permette chiaramente di avere una relazione con lo spazio circostante in modo diverso. Certo. Perché, ovvio, nessuno di questi posti è esclusivo. Magari ci sono di quelli già molto più caratterizzati. Certo, tipo il deserto. Esatto. Ma pensavo quasi molto di più alla base di Eclipse, poi il No, anche deserto. quello. Cioè, sì, sono due spazi estremi che in qualche modo estremizzano anche la tua esperienza. Per esempio, così anche un po' per fare una domanda più leggera. E di chiusura. Nella tua esperienza di giocatore appunto di ruolo dal vivo, cosa ti porti dietro di questi momenti in cui hai dovuto, ti sei ritrovato, hai scelto più che hai dovuto perché hai dovuto pare un Sì. obbligo, hai scelto di appunto confrontarti con un ruolo di gioco in uno spazio così tanto lontano perché fin quando è come dire gli Appennini vicino a casa tua, alla grande, però cosa ti porti dietro? Qual è l'esperienza legata al fatto di fare gioco di ruolo dal vivo nel deserto? Sei Beh, tornato a molto di più. casa Quello e hai detto quanta sabbia. sicuro, per mesi tipo. Quello assolutamente sì. Anzi, credo che tuttora in alcune borse ce ne sia d'avanzo. Ma sai, è molto più la sensazione di quello che vivi, di quello in cui ti trovi immerso. Perché Perché poi nel momento in cui, almeno per come sono fatto io, nel momento in cui inizi a giocare effettivamente con gli altri, le tue relazioni, se io ti devo prendere da parte perché i nostri due personaggi hanno un momento di confronto, ci sediamo su una duna e non su due sedie, ma è così. Cioè, Certo. a quel punto non fa nessuna differenza dove io sono realmente. Ok. E questo secondo me è molto umano. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo un qualche cosa di più interessante in quel momento, è a quello che dai la priorità e l'ambiente effettivamente serve a darti sostegno. Ok. Siamo persone nella base spaziale polacca, ma anche nel deserto, Neanche ecco. nel deserto, anche sotto un temporale, assolutamente, sì. Va bene, il nostro tempo è scaduto, Stefano. Sempre meravigliosamente scaduto, ma Spero di non averti spremuto troppo. Sento che oggi è stata una no. puntata densa, però in qualche modo abbiamo esplorato uno spazio che è lo spazio del gioco in una maniera originale, cioè andando agli estremi, cioè giocare in posti strani e in che modo interagisce con la tua esperienza di gioco, ma anche con la tua esperienza dello spazio stesso. Un bosco diventa un pianeta e gli Appennini fisolani diventano un luogo dove le acque sono avvelenate. Quindi noi ci daremo appuntamento tra un'altra trentina di giorni con un altro argomento, qualche Pensavo parola di congedo, qualche riflessione ultima. Se qualche parola di conforto. vuoi, Le apprezzo sempre. In realtà c'è una cosa che mi va di dire alla fine, che diventa ancora più potente invece l'immaginare che una stanza vuota possa diventare a maggior ragione qualsiasi cosa. Voilà. Benissimo, non diciamo altro. Allora, 19.01, Radio Antidoto, Giochi di tutto, secondo episodio con Stefano Giachè e Francesco Rigoni. Io mando la sigla di uscita e ringrazio chi ci ha ascoltato in diretta, in particolare Federico che si è affascinato dall'ARP e anche il nostro ascoltatore del futuro quando caricheremo l'episodio in podcast. Grazie Stefano e alla prossima. Grazie a te Francesco. Alla prossima. Avete ascoltato Giochi di tutto. Tutto col gioco e niente per gioco. Di Francesco Rigoni e Stefano Giacchè.